Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo della Sicilia, lo facciamo attraverso uno degli studiosi più sensibili su questa terra siciliana, lui stesso, trapiantato a Milano, grande giornalista, Matteo Collura, che ha appena pubblicato con Longanesi Sicilia, la fabbrica del mito, 214 pagine, 18 euro. Nel libro troviamo una serie di immagini, di luoghi, di personaggi che hanno contribuito a creare, se non il mito, i molti miti della Sicilia. La Sicilia per Collura, trapiantato come dicevo prima a Milano, non è soltanto nostalgia e rimpianto, anzi può essere la Sicilia degli scandalosi clamori di cui con frequenza impressionante scrive, riferiscono i giornali, i libri, le inchieste televisive che irrompono dispoticamente nei miei pensieri. Insomma, la Sicilia per Collura è una terra di eccessi, di paradossi e alla fine di esibito cupio di solvi, terra dei tanti misteri che di questi eccessi, di questi paradossi, di questo cupio di solvi sono spesso una mistificante cortina, un alibi. Si parte in questa ricognizione attraverso le maschere della Sicilia, quelle che sempre secondo l'autore hanno portato coloro che la abitano a prediligere quella che a parer loro più li rappresenta, e cioè quella di una Trinacria centro del mondo. Si parte in questa ricognizione, dicevo, da Franca Viola, la coraggiosa ragazza che rifiutò sul finire degli anni 60 di concedere il matrimonio riparatore a chi l'aveva rapita, e il termine in questo caso era davvero esatto, perché fu un atto di esplicita violenza quello che la donna subì. E poi ci sono tanti altri personaggi di cui adesso parliamo con l'autore. Buongiorno a Matteo Collura. Buongiorno Salvatore Carrubba. Matteo, allora, Sicilia la fabbrica del mito o Sicilia mito essa stesso? Beh, entrambe le cose. Direi che la Sicilia è l'isola mitologica per eccellenza, incastonata nel Mediterraneo, lì è successo tutto, ecco, storia e mito, e però devo dire che anche al giorno d'oggi, soprattutto al giorno d'oggi, continua a fabbricarli i miti, cioè ci sono quelli fondanti, quelli che la riguardano secondo la civiltà greca, poi romana, poi araba, eccetera, eccetera, e però ce ne sono altri assolutamente posticci e che secondo me, questo è il senso del libro, servono come alibi per giustificare ogni nefandezza che in Sicilia viene consumata. Ecco, di questi miti che lei descrive, qual è quello più sorprendente a suo parere? Quello a cui secondo me si è pensato meno, o perlomeno non gli si è data la giusta attribuzione, secondo me, è il ratto di Ade per i greci, Plutone per i romani, il ratto di Proserpina, la figlia di Cerere, la protettrice delle messi, la dea della natura, diciamo, ecco. E la rapì e la portò con sé negli inferi, lui era il dio degli inferi, ed è una sorta di fuitina, cioè la ragazza, la Proserpina, fu costretta a vivere con lui. Poi Giove, andando incontro alla disperazione della povera Cerere, consentì che Proserpina venisse liberata per una parte dell'anno, i mesi che primaverili e estivi. In questo senso si spiega l'alternarsi delle stagioni, no? L'estate, l'inverno, la primavera e l'autunno. Ecco, quello è proprio la prima fuitina a scopo di matrimonio, perché fino alla fine degli anni 70 lo stupro non era punito dalla legge se lo stupratore, questa infame figura, diciamo così, sposava la sua vittima. Eravamo a questo punto, ma parliamo di anni recenti, insomma. E infatti uno dei suoi primi miti di cui parla è quello di Franca Viola, un mito contemporaneo. E invece il mito più attuale di quelli che ha esaminato? Ma è forse quello della mafia. In Sicilia si finisce col mitizzare tutto. Io credo che anche la mafia sia stata mitizzata. Non che non esista una grande mafia, la mafia che controlla i mercati dell'eroina, che ha un rapporto privilegiato con gli americani, la malavita americana, eccetera. Però l'impressione è che anche fatti di cronaca nera, di malavita, diciamo, ordinaria, in Sicilia diventano mafia, e quindi si rinuncia subito a fare luce su questi fatti stessi, perché la mafia di per sé è quasi onnipotente, è invincibile, mentre invece ci siamo resi conto che per esempio grandi capi mafia ritenuti tale, per esempio come Gengo Russo, che era un capo mafia d'operetta, se vogliamo, se appunto nel mio capitolo di questo se ne parla, ma anche l'arresto di Riina e l'arresto di Provenzano dicono che la mafia è a un certo punto questi grandi mafiosi, poi sono dei poveracci che vivono a casa loro, che non sanno dove andare, che vivono in un covile facendo una vita da miserabili. E mentre la cosa che più forse attanaglia la Sicilia e la tiene legata a un passato che non passa è la mentalità mafiosa. Ecco, bisogna distinguere tra la mafia e la mentalità mafiosa. La mafia è stata oltremodo mitizzata, mentre la mentalità mafiosa non se ne parla mai ed è quella che permea però, come dire, i rapporti tra i siciliani, no? Perché interessa la classe aristocratica, ammesso che ci sia ancora, la classe politica, la classe impiegatizia, la classe operaia, disoccupati, tutto quanto. Cioè la mafia e la mentalità mafiosa è proprio il dato più evidente e che tiene la Sicilia inchiodata a un sottosviluppo non soltanto economico. E a un certo punto lei scrive che non è un mistero, non lo è mai stata la mafia, in che senso? Perché si conoscono nome e cognomi. In realtà la mafia è servita politicamente, è servita perché attraverso la mafia, attraverso, diciamo, lo spauracchio che la mafia ha determinato a livello anche nazionale, va bene, e attraverso questo si è gestita un'emergenza. E perché, per esempio, ai tempi di Giuliano non si sapeva cos'era Giuliano e da chi era manovrato e a che cosa portasse la strage di Porcella della Ginestra, e poi dopo non si sapeva che Genco Russo era un grande elettore della Democrazia Cristiana e per questo lui era tenuto vivo il mito del Genco Russo capomafia, eccetera eccetera eccetera. Ci si è serviti della mafia perché politicamente ha creato una emergenza. Governare con le emergenze è più facile perché può passare di tutto, considerata la gravità del momento. A proposito di politica, lei ricorda un luogo comune, quello secondo il quale la Sicilia sarebbe l'anticamera di tutte le innovazioni politiche, anche oggi si parla di un modello Sicilia. Lei scrive, si vanta di essere la regione che in politica anticipa tutto, mentre invece non fa che da becchino per scoraggiare, con i morti che seppellisce, ogni ipotesi di reazione civile, ogni proposito. Esattamente quello che stavo dicendo poco fa, cioè ritenere la Sicilia un banco di prova, ecco, del nazionale. Questo viene da Goethe, quindi siamo nella seconda metà del Settecento, quindi molto tempo prima che l'Italia diventasse una nazione. Ecco, Goethe aveva intuito che la Sicilia, lui faceva un'osservazione dal punto di vista mineralogico e naturale, però credo che si riferisse anche alla società, diciamo, siciliana riferita a quella italiana. Effettivamente la Sicilia è la chiave di tutto, però è un alibi anche quello, perché la Sicilia appunto non fa che fare da becchino. Tutti i grandi delitti di stampo mafioso non hanno fatto che rafforzare l'idea della emergenza che giustifica tutto, ecco. Ecco, a un certo punto lei sottolinea il nesso che da Bellini fino a Giuliano c'è tra il mito e la donna. Tra l'altro lei scrive, fuori posto, fuori ruolo la popolazione maschile siciliana, mentre quella femminile rifulge di rinnovato fascino, perdurando intatto il mito della donna, in quanto essere destinato al consumo, fatto per il consumo. Esatto. Quindi un ruolo centrale per la donna in Sicilia è col maschio in arretramento? Dunque, il ruolo centrale l'ha sempre avuto. Nel passato, diciamo, fino ai tempi di Brancati, del Bell'Antonio, Don Giovanni in Sicilia, il mito della donna era più un mito costruito dal maschio, che faceva comodo al maschio, cioè la donna schiava, la donna che doveva sopportare, diciamo, i capricci dell'uomo e comunque non aveva nessuna voce in capitolo. Oggi le cose sono andate all'opposto. Se c'è stata una regione dell'Italia e quindi un luogo dell'Europa che ha fatto passi in avanti in questi ultimi anni, diciamo dal dopoguerra in poi, questa è la Sicilia, cioè è saltato tutto. Oggi la donna è protagonista, ma non in quanto mito immaginato dal maschio, mito accarezzato dal maschio, sognato dal maschio, no, è protagonista, lo è realmente. Cioè io mi accorgo, per esempio, lo vedo tra i miei nipoti, tra i figli dei miei amici, eccetera, quindi i giovani, io vedo che nei gruppi giovanili, nelle comitive giovanili, la figura femminile ha un posto di rilievo. Cioè voglio dire, non voglio usare la parola, ma mi viene quella, comanda la donna. Ecco, nella società ormai acquista un rilievo che prima si sognava, insomma. Ecco. Prima comandava in famiglia. prima comandava soltanto in famiglia e silenziosamente, soprattutto le suocere. Senta, il suo libro si chiude con le parole «La Sicilia ormai ovunque», che riecheggia la linea della palma di Sciascia, o mi sbaglio? Sì, sì, esattamente. Ma no, io ho scritto molti libri sulla Sicilia o che hanno, diciamo, che attingono ispirazione dalla Sicilia, e però a me non sembra, onestamente, di scrivere soltanto di Sicilia. A me mi sembra, e qui do ragione a Sciascia, appunto, di scrivere del mondo. Ecco, la Sicilia effettivamente è un microcosmo perfetto. Grazie a Matteo Collura, grazie, autore di Sicilia, La Fabbrica del Mito. Buona domenica. Grazie a voi, buona domenica, arrivederci. Abbiamo concluso con Collura parlando di Leonardo Sciascia, che spesso viene evocato nel suo libro, e ricordo che proprio di Sciascia Adelphi sta pubblicando l'opera Omnia. Esce adesso il primo volume con le opere di narrativa, teatro e poesia, un libro molto bello in cofanetto, 2024 pagine, 80 euro, curato da Paolo Squillanti, nel quale volume troviamo alcune delle opere più celebri di Leonardo Sciascia, a partire appunto da quelle narrative che gli diedero la prima notorietà a livello nazionale. E sempre Adelphi sta continuando la pubblicazione delle opere di Sciascia in forma economica. Esce per esempio Gli Zii di Sicilia, 248 pagine, 12 euro. Questa è la prima opera narrativa pubblicata da Sciascia nel 1958, che introduce molti temi che poi saranno tipici del grande scrittore. Un altro classico siciliano, questo più antico, ritorna da Mursia ed è il libro L'Imperio di Federico De Roberto. Federico De Roberto è il grande scrittore, autore dei Viceré, che certamente è uno dei grandi romanzi della letteratura fra l'Otto e Novecento italiana. E dei Viceré questo libro in qualche modo è la prosecuzione. Il libro a 258 pagine costa 15 euro. Non siamo più a Catania, dove era ambientato i Viceré, ma a Roma, dove il principe Uzeda cerca di arraffare nuovo potere dopo quello dell'antica famiglia nobile che gli rappresenta. L'opera non fu particolarmente limata, conclusa dall'autore, ma è un'opera che rimane di grande ambizione e di grande attualità, perché ci descrive i meandri del potere e anche le malefatte della politica, ma anche dei media, che De Roberto mette alla berlina. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubbe, veniamo a temi di attualità. Si chiude a Milano il Salone del Mobile, allora in questa occasione vi voglio segnalare un libro non sul design, ma sulla storia dell'arredamento. E questo di cui vi parlo è un libro che a modo suo è un grande classico di Mario Prats, La filosofia dell'arredamento, i mutamenti del gusto nella decorazione interna attraverso i secoli, pubblicato da Guanda, 400 pagine, 34 euro. Prats è un grande studioso, vissuto tra il 1896 e il 1982, un anglista saggista che dedicò al tema appunto del gusto dell'arredamento molte opere importanti. La casa per Prats era una dimostrazione della personalità di chi l'abitava. Racconta nel libro di essere rimasto molto colpito e molto negativamente dal fatto che un grande maestro universitario, un grande professore dalle cui labbra Prats pendeva, lo deluse terribilmente quando l'allievo poté visitare la casa poco più che un tugurio che quell'illustre luminare abitava, e Prats si chiese come potesse una persona così insensibile abitare in una casa tanto brutta, e aggiunse le righe che adesso vi propongo. Dubito del gusto d'un professore di letteratura italiana che s'acconcia ad abitare sotto lo stesso tetto con un salottino del più rachitico stile Liberty. Mi immagino che egli senta per Petrarca la stessa indifferenza con cui tollera quel vituperio. Uno storico dell'arte può vivere in una casa stipata di quadri dal pavimento al soffitto, quadri raccolti da un parente e insaccati così, con lo stesso criterio col quale un cenciaiolo gonfia di stracci il suo sacco. Quadri pessimi, mediocri, discreti e perfino buoni, relitti di sacristia, pezzi di colore di piccoli maestri dell'ultimo Ottocento, perfino cartoline illustrate in cornice, insieme con ninnoli d'ogni genere, porcellane autentiche, bigiotterie da quattro soldi, nanetti portafortuna, lampade di catacombe, lucerne d'ottone, frammenti di scavo che s'assiepano su scaffali, su cantoniere, su scarabattoli, tutti coperti dal magnanimo velo d'una pietosa polvere, una bruttezza fondamentale e sistematica, frutto dell'infallibile istinto di quel defunto parente per ogni deviazione del gusto. La sua stanza da letto, chiusa tale e quale la lasciò, con un enorme letto di stile barocchetto umbertino, forma il nucleo centrale, il tumore interno dell'appartamento. Le persiane sono tamponate con vecchi giornali ingialliti tra stecca e stecca. Eppure, questo storico dell'arte appare un uomo fine, uno studioso entusiasta. Ma il suo animo è per me impenetrabile, come quello di un selvaggio della Polinesia. Anzi, poi Prats si difende dall'accusa di voler giudicare gli uomini dall'abitazione e di non voler applicare anche alla casa il proverbio «l'abito non fa il monaco», e invece per Prats la casa fa veramente l'uomo. E allora troviamo nel suo libro una dotta e anche divertente in certi punti descrizione dei vari stili, dall'antichità classica passando alla casa del Cinquecento, agli interni delle case olandesi, del Settecento francese, dei vari stili, Luigi XV, fino a Liberty, con molte immagini e molti riferimenti ad ambienti descritti in libri celebri o pitture altrettanto famose. Un altro elemento di attualità è dato dalla crisi coreana, che tiene il mondo con il fiato sospeso fino a un certo punto forse, ma insomma c'è molta agitazione per questo tema. E allora vi segnalo un libro interessante da leggere proprio in questa fase di Guy Delisle, che si intitola Pyongyang, Rizzoli, Lizar, 180 pagine, 16 euro, tradotto da Francesca Martucci. Questo è un libro a fumetti, è scritto da un autore molto noto, che racconta di una sua visita di lavoro in Corea del Nord, dove Delisle va a visitare uno studio di animazione. La visita inizia con l'immancabile omaggio alla gigantesca statua di Kim Il-sung, e poi troviamo la cronaca della permanenza in quel paese, dominata, come nota Antonio Ferrari nell'introduzione, dalla sindrome del controllo minuzioso e capillare su qualunque aspetto della vita. I coreani, scrive l'autore, sono dominati dalla paura costante di venire mandati in uno dei campi di rieducazione. Ufficialmente non esistono, aggiunge, ma tutti sanno che ci sono. A un certo livello di oppressione, scrive poi l'autore, poco importa quale forma prende la verità, perché in fin dei conti più enorme è la menzogna e più il regime dimostra il proprio potere e più getta la popolazione nel terrore. Speriamo che non getti nel terrore il mondo intero. Un altro tema di attualità resta naturalmente la politica in questo periodo difficile e complesso, alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, e allora vi segnalo un libro che sembra avere un titolo emblematico, L'inverno della Repubblica. Ne sono autori Massimo Bocchiola e Marco Sartori, il libro è pubblicato da Mondadori, 238 pagine, 19 euro. Vi dico subito che la Repubblica del cui inverno parla questo libro non è la Seconda Repubblica Italiana, ma è la Repubblica Romana, colta nel momento più drammatico della preparazione alla fase poi dell'impero, e cioè nel momento del complotto di Catilina, che scosse dalle fondamenta quelle istituzioni. Questo libro storico, scritto però per tutti, su una delle pagine appunto più importanti della storia di Roma, la congiura che nel 63 a.C. avrebbe dovuto sconvolgere gli equilibri della Repubblica. Roma in quel momento era in crisi, dominata da personalità come Cicerone, Pompeo, Crasso, Cesare, e Catilina in questo ambiente apparve come un personaggio ambiguo, poi al centro di molte interpretazioni anche di grandi artisti, e dipinto spesso come un mostro. Contro di lui si erge come avversario diretto e principale Cicerone, che svolse un ruolo di primo piano per rovesciare il suo tentativo di golpe e che aveva colto i pericoli del periodo, come testimoniano le righe che vi propongo adesso. Sia pure tra mille incertezze, Cicerone comincia a elaborare un progetto politico originale. Tale progetto nasce dalla presa di coscienza, in Cicerone ma anche nei gruppi più avveduti e moderati della nobiltà romana, che la Repubblica corre un gravissimo pericolo, perché la classe dirigente tradizionale non ha più forze per governare un impero così vasto e le spinte dal basso da parte dei ceti che ne vogliono godere i vantaggi. L'unica via d'uscita per salvare lo Stato dalla rivoluzione continua, l'unica maniera per conservare la Repubblica dall'illegalità e dalla violenza degli eserciti e garantire la dignitas e l'autonomia dei cittadini, è quella di estendere il numero di chi in qualche misura può aspirare onestamente a partecipare alla vita pubblica. è il nuovo ceto dei cittadini onesti, dei boni cives, allargato nella sua formulazione più ampia alle classi possidenti municipali e a chi ha tutto da perdere a causa della illegalità. Nella stessa elezione di Cicerone a console c'era già sentore di quella idea di conciliazione politica che passa sotto la formula, da lui poco usata, di concordia ordinum, cioè l'alleanza tra i ceti possidenti degli ottimati e dei cavalieri, garantita da personalità eminenti che potevano mediare, come faceva lui che veniva dal ceto equestre, tra interessi a volte divergenti. E a questo punto... Il confettino. Concludiamo con un autore molto noto, Pinin Carpi, di cui il Battello Vapore ripropone Il papà pittore, con le illustrazioni di Desiderio Guicciardini. È una poetica storia, questo, sulla spiaggia ventosa, che si può acquistare per i bambini superiori ai 3 anni. Il prezzo del libro è 12 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.